Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar, parte terza, lezione 27. D'ora in poi continueremo con lo Zohar Otiyot, le lettere, e dopo torneremo al nostro Zohar normale. Una parte sarà poi finita bene. Ci sono enormi forze e informazioni di cui abbiamo bisogno. Ci aiuterà enormemente quando ritorneremo al nostro normale Zohar. Prova ad ascoltare molto attentamente ciò che ci dice qui. Anche se prendiamo le lettere dell'alfabeto in qualsiasi lingua, incluso l'alfabeto olandese, puoi descrivere tutte le forze, per così dire, ogni cosa nel mondo. Hai bisogno di guardare il cielo attraverso il binocolo per descriverlo? No, è chiaro. Con le lettere di ogni alfabeto puoi descrivere praticamente qualsiasi cosa. Anche nell'alfabeto olandese è fondamentalmente costruito l'intero universo nella lingua. Puoi descrivere qualsiasi cosa con questa lingua o inglese. È comprensibile per noi. Tutte queste forze sono nell'universo. Anche le lettere olandesi potrebbero venire a stare davanti al Creatore. E nel principio le lettere olandesi erano lì alla creazione del mondo, insieme alle lettere ebraiche. Tutti gli altri alfabeti, tutte le altre lettere del mondo, stavano potenzialmente insieme alle lettere ebraiche. Solo le lettere ebraiche sono le uniche che hanno conservato la connessione tra le radici e gli effetti inferiori. Questa è l'unica differenza. Gradualmente arriva ogni altro alfabeto da sopra, assolutamente, ma questo è dato a un altro popolo. A tutta l'umanità è data la lingua santa, a tutta l'umanità è data ed è l'alfabeto più interiore di tutti gli altri alfabeti. Non che sia meglio, è diverso. Vedi, quando fu fondato lo Stato di Israele, dovevano fare una terminologia per tutte le questioni terrene, fisica o terminologia per panettieri, la lingua dei fornai non c'era. Il linguaggio della Torah è molto limitato. Ci sono solo circa 7500 parole in diverse combinazioni e non di più. 7500 parole nella loro radice, nell'intera Torah. Cosa puoi farci? Questo linguaggio è dato solo per concetti spirituali e processi spirituali e nient'altro. Ovviamente c'è ogni cosa inclusa, fisica, terminologia per una lavanderia, tutto intrecciato in esso, ma non puoi esprimerlo. Ecco perché erano così inventivi lì e inventarono tutti i tipi di terminologia per tutti i settori della vita terrena. Ma lo spirituale, il più intimo, il più vicino al Creatore, è ovviamente il linguaggio della Torah e della Kabbalah. Pertanto è buono tenerti impegnato con la Torah e la Kabbalah. È chiaro ora cosa significa che le lettere vengono davanti al Creatore? L'ultima volta abbiamo appreso che nel nostro mondo, o Asiya, è impossibile determinare chi deve ad Hashem, chi lavora per Hashem e chi non è fuori. L'unica cosa che può venire è se qualcuno può dare frutto è benedetto. Sai che significa? Che la persona non attinge dalle forze impure, ma dalle forze pure. L'ultima volta che abbiamo appreso che nel nostro mondo o Asiya è impossibile determinare chi deve ad Hashem, chi lavora per Hashem e chi no. L'unico modo per vederlo è se qualcuno dà frutti, è benedetto. Se produce frutti o discendenza, significa che non attinge dai poteri impuri, ma dai poteri puri. E quella è l'essenza di tutta questa spiegazione delle lettere, perché vennero tutte le lettere una dopo l'altra, e non mancava nessuna per creare il mondo, per imparare del grado nella santità che ogni lettera ha qui personale e qualità speciale. Ciò che era così speciale in lei, ogni lettera veniva davanti al Creatore. Il Creatore è la forza di Binah. Le lettere sono Zeirampin e Malkut e vengono a Binah. Ogni lettera arriva con la sua specialità unica. Porta la sua migliore qualità innanzi per dimostrare che era adatta a creare il mondo con lei, che il mondo sarebbe costante se il mondo fosse creato mediante lei. Poiché 22 lettere sono il particolare di tutti gli inizi dei gradi, le radici di ogni grado che sono nei quattro mondi Abiyah, Azilut, Briah, Yetzirah e Asiya. Come già sai, tutto può riflettersi in 10 Sfirot, luci, ma tutti i punti di forza esistono anche nelle lettere stesse. Con le lettere puoi fare qualsiasi combinazione. Cos'è un tavolo? Di per sé, ha un tavolo qualcosa considerando una qualità? Ma attraverso le lettere del tavolo si può mostrare l'essenza di esso. Lo stesso con le lettere della lingua santa. Si basano sui punti di forza che sono nell'universo. Puoi vederli in termini di forma, numero, lettera, eccetera. Quindi fondamentalmente sono le radici di tutte le forze di Abiyah. E ogni lettera, delle 22 lettere, considerava il suo grado, il che significa che pensava di essere molto speciale e da lei i figli degli uomini potevano superare, imparare che a causa loro potevano superare il grado e potevano superare il figlio del mondo, da conquistare con santità sopra le forze impure. Come già sai, ci sono due forze nel mondo. La forza santa che è chiamata in ebraico Kedushah e le forze impure che sono chiamate in ebraico Tumah. Perché? È così com'è. Questi due sistemi ci vengono dati, che è un dato di fatto. Ora in questo capitolo delle lettere che ci vengono date da Amanunah Saba ci dice che ogni lettera va prima da lui e lei mostra le sue migliori qualità dicendo: da me puoi creare il mondo, ho le migliori qualità per il mondo inferiore, l'umano che viene creato, per dare la forza, l'insegnamento, come conquistare la santità sopra le forze impure. Ma come già sai, ci sono due punti di forza, destra e sinistra. Ogni lettera pensata per via della sua qualità poteva dare alle persone la forza di superare le forze impure. È chiaro? Nella prima lezione hai visto che è impossibile nel mondo Asiya vedere se qualcuno sta lavorando per il creatore o no. In un certo modo si potrebbe dire che non è possibile vedere chi è chi. Ogni lettera fa un passo avanti e dice: ho la qualità di creare la possibilità per i nostri mondi e per tutti e quattro i mondi insieme e separatamente, di dare agli uomini il cambiamento per distinguere e superare le forze impure e lavorare con le forze pure a venire in accordo con le qualità della luce. Questo è il messaggio di ogni lettera. Do agli uomini intuizione e la forza di superare l'impuro e di lavorare con le forze pure. Per realizzare il desiderato Gmar Tikkun. L'intero significato delle lettere è di darci la possibilità di raggiungere la correzione finale. È la stessa creazione che deve lavorare con questi due punti di forza, i punti di forza puri e quelli impuri. In questo vedi entrambi i punti di forza, sono creati e dati a noi, così possiamo partecipare attivamente nel processo di creazione. Non passivamente, ma attivamente partecipare, e nessuno potrebbe e può eludere questo compito. Neanche una persona sacra, perché devi sapere che quello che vedi come sacro ha partecipato attivamente a questo lavoro, o in altre parole, ha lavorato su se stesso. Ognuno è posto tra questi due punti di forza, e ogni persona individuale deve dare forza di scegliere il bene, mentre sperimenta anche il male. Entrambi sono necessari. Entrambi sono ugualmente attraenti, e può essere che il male sia più attraente del bene. L'impuro è proprio dietro l'angolo, perché la nostra natura è il desiderio di ricevere, e tuttavia dobbiamo scegliere il bene. È facile da prendere e da una parte ci rende umani, ma fino a che punto andiamo? D'altra parte non è buono pensare che siamo angeli e ci comportiamo come angeli. Fino a che punto ci spingiamo in questo? Il fatto è che il Creatore ha creato due punti di forza ed è sua intenzione fare uso di entrambi. La sinistra ha un grande potere che dà un calcio all'intellettuale, ma è necessario guardare all'altra parte. Abbiamo bisogno di guardare ad entrambe le forze, quindi fare consapevolmente una scelta e quello ci rende umani. Questo è il lavoro che dobbiamo fare per ottenere la correzione finale. I creatori hanno creato queste forze in modo che possiamo giungere alla totalità. Il Creatore ha creato queste forze in modo che possiamo giungere alla totalità, quindi non abbiamo resistenza. È tutto necessario, è chiaro? Ogni lettera pensava che aveva la migliore forza, la migliore qualità per aiutare il Creatore. E Akadosh Baruch Hu ha risposto a ciascuna di esse, che opposte alla sua forza ci sono anche i Klipot, e quindi i figli del mondo non possono comprenderti. Ogni lettera è venuta al Creatore e ha detto: ho una forza così che il mondo può essere stabile. E il Creatore ha risposto a loro: sei buona, sei grande, ma la forza che hai ha anche una controparte, quindi non posso creare con te il mondo. Perché lui gli dà questa risposta? In questo vedi che ogni lettera ha due lati. C'è la forza e così il mondo può essere stabile, ma c'è anche la forza delle forze impure. Quindi il creatore dice: io non posso creare il mondo con te. Ricordi la storia di Mosè quando era in Egitto e faceva miracoli con il suo bastone. È importante conoscere le storie della Torah. Mosè venne in Egitto per portare via la gente da lì. Il creatore gli parlò e disse: fai i miracoli che ti ho comandato di fare. Uno dei comandi era di colpire con il suo bastone su una roccia, in modo che il sangue scorresse nel Nilo, o che avrebbe dovuto colpire la terra in modo che ci fossero i pidocchi o qualcosa del genere. È scritto: il saggio egiziano fece lo stesso. Non credevano a Mosè perché avevano raggiunto lo stesso, sebbene avessero fatto uso delle loro forze impure. Ma in un dato momento non potevano ottenere ciò che Mosè ha fatto e si sono scusati con la scusa di quello viene da sopra. Potevano partecipare ad un certo livello. Nel nostro mondo ci sono persone che fanno anche un tipo di miracoli, ma usano anche le forze impure. Sembrano fondamentalmente, ma non lo è, perché usano le forze impure, che significa che non dà frutti. Guarda le persone che possono curare gli altri e fare ogni tipo di cose. Nella guarigione non c'è nulla di sbagliato, ma ci sono cose che la gente fa. Guarda al risultato, a cosa mirano o quali sono le conseguenze. Tieni gli occhi aperti e guarda al risultato, ci sono benedizioni o no? Questo era un semplice esempio di Mosè, ma ora continuiamo con il testo. Ha parlato con ciascuna di loro, nel senso che ogni lettera stava davanti al Creatore. E il Creatore le diceva della sua controparte, della forza che apparteneva nel sistema delle forze impure. Quindi non era adatta a creare il mondo, perché il mondo non poteva resistere. E quindi i figli del mondo, il popolo, non possono comprendere che non avete correzioni fino a quando la lettera Bet si trovava davanti a lui. La Torah inizia con la lettera Bet, Breshit, e il significato dei suoi punti di forza è benedizione. La lettera Bet ha davvero la benedizione. Appena vedi che non ci sono benedizioni, vattene. E quando noti che ci sono benedizioni, rimani e osserva attentamente il metodo in modo da poter avere anche tu benedizioni. Quello opposto a lei, la lettera Bet, non c'è assolutamente nessun clipot, perché l'altro Hashem è eunuco e non può avere frutti come si dice sopra. Ti sta diventando più chiaro? Tutte le lettere, eccetto la lettera Bet, hanno una controparte. Significa che tutte le altre lettere hanno un lato puro e un lato impuro. Rappresentano entrambi i sistemi, pertanto il Creatore non ha potuto usarli per creare il mondo fino a quando non è entrata la lettera Bet. La lettera Bet è la lettera di benedizione, e opposto alla benedizione non c'è nulla, non ha nessuna controparte, non c'è assolutamente nessuna controparte nei poteri impuri. Non pensare cosa dice riguardo la maledizione o qualcos'altro, perché opposta alla benedizione non c'è controparte. Dice, perché l'altro Hashem è eunuco, non ha frutti o discendenza, e quello è il significato della benedizione. Quando ci sono benedizioni c'è frutto, discendenti, ma l'altro Hashem non può avere frutti come detto sopra. E poi disse HaKadosh Baruch Hu a lei, alla lettera Bet, certo con te creerò il mondo e così via. Ricordiamo che stiamo parlando solo di punti di forza. Non vedere le lettere come qualcosa stampato su carta. Stiamo parlando della forza delle lettere e la lettera Bet è la forza della benedizione. È benedetta. I suoi punti di forza sono benedetti, quindi solo con lei può creare il mondo. Più tardi vedremo che non ci sono solo benedizioni. Guarda ad esempio com'è l'immagine della lettera. Tre linee, una sopra, una verticale e una linea sotto, e il lato sinistro è aperto. Pazienta, perché quando arriva la lettera Bet, per il creatore lui ci dirà perché è adatta. Ma per ora è buono sapere che lei ha benedizioni. Perché solo in te c'è la selezione e la distinzione. Con la lettera Bet c'è la possibilità di venire alla chiarezza e di avere discernimento, per sapere se uno sta lavorando nel suo nome o se non lavora nel suo nome, se uno riceve dal santo o dalle forze impure. Solo nella lettera Bet è il discernimento per portare alla chiarezza in ciò che è dal divino o ciò che è dall'impuro. Questo è molto importante, perché molti fingono di essere santi. Ma hai abbastanza discernimento? Molti fingono di essere santi. Gli uomini dicono che è santo, spirituale, finge di esserlo, ma c'è molta impurità in esso. Le forze impure sono attratte. Costruisce templi. Non significa che è sbagliato. Chi può decidere se qualcosa è buono o cattivo? Da chi vengono ricevuti i poteri? Dai poteri puri o impuri? Nel nostro mondo non puoi vedere questo. Uno può far finta di essere un santo, ma puoi davvero vedere? No. Nel nostro mondo non puoi vedere. Qui ci dice che le benedizioni sono una caratteristica che viene da sopra. Ricordo il periodo quando ho iniziato questo corso. Non avevo assolutamente idea di quale sarebbe stato l'effetto e il mio motto era «ci viene dato». All'inizio c'erano 5-6 persone e c'era un tempo in cui avevamo 25 persone. Ma poi è diminuito a 6 e non ho potuto pagare l'affitto. E così è. Da sopra la benedizione doveva venire, è chiaro? La benedizione giace nella crescita della nostra comprensione e nell'avvicinarsi al Creatore. È la lettera Bet che ci dà il discernimento, in modo che ognuno di noi possa arrivare alla chiarezza e vedere chi sta lavorando per il Creatore e chi non lo è. Perché questa lettera non ha avversario nella forma di forze impure. Ed è buono sapere questo, tienilo nella tua memoria. E quindi, certo, con te il mondo può mantenersi in ordine per distinguere e far crescere la santità sopra l'impuro, fino a cessare di esistere l'impuro e morirà per sempre, e si arriverà alla correzione finale. Questa è la spinta dell'esistenza. Ogni cosa è su questo punto. C'è un gruppo che porta giù le forze divine e c'è un gruppo che porta giù le forze impure. E non sta a noi decidere cosa fare. Ma questo è importante. Il programma è già costruito nella vittoria. Hai libera scelta. Vuoi essere parte della vittoria o vuoi dimorare sempre più nel dramma? Come già sapete, anche l'ultimo va bene. Qualunque scelta tu faccia, la vittoria è incrollabile. A lungo termine, con assoluta certezza, il divino trionferà sull'impuro. Metti questo nel tuo cuore, anche se non puoi capire né sperimentare. Incidi questa breve frase nella tua memoria. Il divino trionferà sull'impuro. E così è. Di, sebbene la prova non è visibile, accetto e faccio del mio meglio per portare giù le benedizioni. Alla fine della corsa, il divino trionferà sull'impuro. Non pensare che l'impuro sarà distrutto, no. In un modo o nell'altro saranno collegati con il divino. È chiaro? Lo Zohar ci dice, alla fine, Yaakov trionferà. Alla fine il popolo di Israele trionferà. Ma qual è il significato delle parole «il popolo di Israele»? Non commettere l'errore di pensare che trionferà solo il popolo di Israele. Tutti coloro che lottano per l'unità, che rispettano le leggi del Re dei Re, colui che porta giù le leggi eterne dell'universo, ogni persona che lascia prevalere il divino sull'impuro trionferà, incondizionatamente. Non pensare che uno debba essere scelto. È all'interno del piano di creazione e sei libero di fare la tua scelta. Hai una libera scelta, ma questo non si applica per coloro che appartengono al popolo ebraico. Il popolo scelto. Il popolo ebraico è tenuto a rispettare le leggi, ma stiamo parlando di un solo uomo. Non possono andare a destra né a sinistra, né chi appartiene a un altro sistema di credenze. Quello di cui sto parlando è su questo. Voglio che tu veda che la vittoria è qui. Il divino celebrerà la vittoria sull'impuro, è chiaro? Non sto parlando solo nel generale, ma anche nel particolare, perché ognuno di noi ha entrambi punti di forza nel generale e punti di forza nel particolare. Dovresti sapere che la vittoria assoluta per tutti noi è garantita. Non lasciarti distrarre e continua sul tuo sentiero, perché la vittoria non arriva in una volta. C'era una storia molto interessante nella Bibbia, nello Zohar, ossia, quando Yaakov ritornò nella sua patria con moglie e figli, ed Esav venne ad incontrarlo con 400 uomini. Esav ha parlato con Yaakov e vedi quei due come due punti di forza nell'universo. Ti guiderò, vieni con me alla montagna di Seir, il posto dove sono e ci dividiamo il mondo. Tu ricevi una parte e io avrò una parte. Facciamo un buon affare. Naturalmente Esav ha sentito la forza di Yaakov e ha immediatamente capito che lui era la sua controparte. Che cosa ha fatto Yaakov? Disse a Esav, no, e si inchinò 7 volte. È comprensibile questo? Come può qualcuno inchinarsi per le forze impure? Non l'avevo mai capito questo, e nessuno poteva darmi una risposta. Ma qui nello Zohar, Yaakov non ha sprecato le sue benedizioni. Tutte le benedizioni che ha ricevuto da Isaac, che aveva 2 figli. Non voleva sprecare la sua benedizione, così avrebbe ricevuto ogni cosa. Qual era la ragione? Voleva salvare la sua ultima forza per l'ultima battaglia, quando ne aveva davvero bisogno per la sua correzione finale. È scritto che tutte le nazioni insorgeranno contro Israele e Gerusalemme sarebbe assediata, eccetera. Questo è molto speciale. È bene capire le storie della Bibbia. Naturalmente le forze impure lavorano contro e provano a tutti i costi di superare le benedizioni. Benedire con il significato di costanza, perché questo è ciò che manca alle forze impure, costanza. Pertanto Yaakov si inchinò per Esav e disse di no. Non voleva sprecare la sua benedizione e si inchinò 7 volte per Esav. Perché? Sapeva che la salvezza non poteva arrivare in una volta. Lentamente, gradualmente, le benedizioni si devono costruire. Chiaro? Questo è molto importante perché questa è una regola molto saggia. Non possiamo correggerci in un momento, abbiamo bisogno anche di tempo. Una lezione di Kabbalah non è abbastanza. Lentamente cresciamo ed è buono sapere che io cresco con te. Cresciamo insieme. Tutti noi sentiremo la vittoria. Tutti celebreremo la vittoria sulle forze impure. Nella nostra vita quotidiana Esav governa ed è per noi diventare consapevoli che Esav è il dirigente, così possiamo superarlo e avere la vittoria, che significa il dominio della divinità. Ora puoi vedere qual è il significato della lettera Bet e perché il Creatore l'ha usata per creare il mondo. Non ha controparte, significa che non c'è dualismo in lei. Quindi connettiti con lei e senti le benedizioni del Divino. Lui continua. Quindi con la lettera Bet ha creato il mondo, perché con lei il mondo sarà stabilito e giungerà alla divinità, e la vittoria verrà definitivamente. Quindi è scritto finché la morte non sarà assorbita per sempre. Questo quanto è grande il piano del Creatore. La morte sarà assorbita per sempre. Puoi immaginare che capolavoro. Per raggiungere questo obiettivo, lui ha creato i sistemi di 2 punti di forza, la forza divina e le forze impure. E ognuno di noi ha la libera scelta di scegliere se vuole lavorare con la forza divina o con le forze impure. Ma alla fine la morte sarà assorbita. Puoi crederci? Dirai, e con tutte le cose terribili che l'umanità ha fatto, questo non può essere vero. È così profondo e forse devi leggerlo più di una volta. Tutte le cose orribili che sono accadute saranno assorbite dal bene. Questa è la salvezza, hai capito? Tutto sarà assorbito dal buono, significa che le cose cattive saranno assorbite dal bene. Ricorda che questo va molto più in profondità. Molti strati qui sono nascosti, quindi leggi attentamente e procedi lentamente. È scritto che l'angelo della morte, che è designato per 6.000 anni, servirà come l'accusatore, il che significa che perseguirà coloro che hanno peccato e saranno consapevoli di questo. Ti tenterà di peccare così può perseguirti. Alla fine l'angelo della morte diventerà l'angelo della vita. Questo è molto speciale. In un certo modo l'angelo della morte è un ministro che lavora per il Creatore e quando la correzione finale è lì, cambierà il suo vestito e mostrerà che anche lui faceva parte del piano della creazione. Com'è teatrale, simile a una commedia di Shakespeare. Tutti conoscono Otello. I demoni lo strangolano e quando ciò accade il pubblico piange e alla fine tutti applaudono perché la commedia è stata grandiosa. Alla fine gli attori si prendono per mano. Quando le tende si aprono, si inchinano. È tutto nel gioco. Tutti i 6.000 anni sono una buona commedia. Uno recita un demone e quando lo spettacolo è finito è solo un ragazzo allegro. L'angelo della morte alla fine ti mostrerà che è anche un ragazzo allegro. Il suo ruolo era quello di essere ministro delle cause penali. Niente di sbagliato con ciò. E uno arriverà alla correzione finale. Ricordalo sempre, già adesso, mentre ancora non sentiamo di essere completamente corretti, ricorda e assaporali ora, dopo il gioco l'assaggerai. Facciamo una pausa e poi continueremo. Abbiamo appena avuto una pausa e continuiamo con le lettere. So che non siamo venuti davvero alle lettere, ma sento che questo è il momento giusto per continuare con le lettere. Un altro motivo è che non è buono fare due argomenti allo stesso tempo. Devi realizzare che il mondo spirituale differisce dal mondo materiale. I bambini devono imparare molte materie, ma non nello spirituale. L'energia di un soggetto è così diversa ed è difficile passare da un argomento all'altro. A volte dà il sentimento come se stessi viaggiando da una galassia all'altra. Ci sono così tanti gradi e l'argomento delle lettere è solo un piccolo capitolo nello Zohar. Questo capitolo delle lettere, ad esempio, è ottimo per aiutarci con le nostre correzioni interiori. Le lettere ci aiutano anche a fare connessioni con alcuni punti di forza presenti nell'universo, mentre altri argomenti, ad esempio sulla Shoshanah che era all'inizio, è assolutamente diverso. La differenza tra gli argomenti è enorme e quindi è bene rimanere con uno. Chiaro? Potresti chiedere, e che cosa succede con Shlavei Asulam e Etz Chaim. È buono iniziare con Shlavei Asulam, da il primo assaggio dello spirituale, ed Etz Chaim, per esempio, è un'altra materia, diversa ma buona per imparare fianco a fianco. Continuiamo, ora c'è la costruzione delle lettere. Sappi anche che c'è un principio, l'argomento della classificazione delle 22 lettere, in tre gradi generali, che sono Binah, Zeirampin, Malkut. 22 lettere dell'alfabeto sono divise in tre gradi, proprio come ogni parzuf. Ogni parzuf ha tre, e cioè testa, busto e gambe. Keter, Kokmah e Binah sono la testa. Chesed, Gevurah e Tiferet sono il busto. E Netzach, Hod e Yesod sono le gambe. Ora spiega, le 22 lettere sono divise anche in tre parti. Binah, Zeirampin e Malkut. Questo è il generale. Ricorda anche che le lettere provengono dai sette più bassi di Binah. Perché sopra Binah non ci sono Kelim, che sono le lettere. I Kelim sono i ricevitori. Lettere e sopra Binah non sono presenti. Perché no? Devi sapere che Keter non ha Kelim. Concentrati e ti succederà. Nel momento in cui pensi, lo so già questo, devi stare in guardia. C'è sempre l'alternanza di concentrazione e rilassamento. Non è buono rimanere troppo a lungo in concentrazione, né troppo a lungo in rilassamento. È chiaro? Lascia che ci sia un po' di rilassamento dopo la concentrazione. Significa che ti dai del tempo per digerire le informazioni. Lascia andare il pensiero, perché quando inizi a pensare sarà un caos. Lascia che accada, così come digerisci il cibo, così lascia che le informazioni si digeriscano. Non usare il pensiero. So che questa è la pietra d'inciampo. Iniziare a pensare, per iniziare facendo struttura. La logica divina non ha struttura, chiaro? Qui ci dice che Keter non ha Kelim. In te c'è Keter, un Keter senza Kelim. Puoi vedere Keter come l'inizio di un'idea, seguito da Chokmah, e anche lei non ha Kelim. Certo che è un pochino più ruvida. La sua idea è più visibile, ma ancora senza Kelim. L'inizio di Kelim è nei sette più bassi di Binah. Keter è l'inizio di un'idea, pensa al punto, e Chokmah è anche luce senza Kelim, ma la sua luce è un po' più ruvida. Forse potresti dire l'idea. Il punto è diventato intuizione. Ancora nessun Kelim, perché non puoi afferrarlo, ma quando si muove più in basso, verso i sette più bassi di Binah, Zeirampin e Malkut, è diventato un vero Kelim, e questi Kelim sono chiamati lettere. Questo è quello che dice, perché sopra Binah non ci sono Kelim che sono lettere. Lettere, Kelim, ricevitori, organi di percezione, tutto lo stesso. E le 22 lettere che sono in Binah sono chiamate grandi lettere, e le 22 lettere che sono in Zeirampin sono lettere normali, e le 22 lettere che sono in Malkut sono lettere piccole. Se guardi nel libro della Torah, vedi che alcune lettere sono grandi, ma la maggior parte sono normali e ci sono anche alcune lettere piccole. C'è ad esempio l'inizio del Levitico, Vaikra, e il Creatore chiamò Mosè. Vedi, la lettera Aleph è piccola e quella ci dà molte informazioni. Ci dice che ci sono 22 lettere in Binah, ci sono 22 lettere in Zerampin e ci sono 22 lettere in Malkut. Binah ha le lettere grandi, Zerampin le lettere normali e Malkut ha le lettere piccole. Una lettera grande significa che può entrare più luce e quando la lettera è normale può entrare meno luce e quando ci sono lettere piccole può venire solo una luce minuscola perché c'è più grossolano, chiaro? Quindi nella Torah vediamo tre tipi di lettere e ora sappiamo perché. E nello stesso modo sono divisi nel particolare in tre gradi: Binah, Zerampin e Malkut. Cosa significa questo? Prima c'era la divisione delle 22 lettere in tre: Binah, Zerampin e Malkut nel generale. Ora parla dello speciale. Binah ha 22 lettere e Zerampin ha 22 e Malkut ha 22. Proprio come diciamo con le persone: Johnny, Pete, eccetera, così tanti diversi in generale. Questo è un ebreo, questo è un cristiano, ma tutto è in ogni uomo. Un papuano e un americano e un indonesiano, un tedesco, un ebreo. Ogni cosa è in un solo essere umano. Tutte le forze di quelle nazioni sono in un umano. Nell'aspetto particolare dovremmo sempre vedere questi due aspetti. Perché ci sono 22 lettere in Binah de Binah, Zerampin e Malkut? Così ci sono anche 22 lettere in Zerampin e così ci sono anche 22 lettere in Malkut. Binah ha 22 lettere che possono essere divise in lettere di Binah, lettere di Zerampin e lettere di Malkut. Come già sai, c'è il principio di nulla è nel generale che non esiste nel particolare. Nulla esiste nell'universo nel generale che non esiste nella parte più piccola dell'universo. La struttura è sempre la stessa, 10 sfirot o 22 lettere, esattamente lo stesso. L'universo ha la stessa struttura dell'insetto più piccolo. Entrambi hanno 10 sfirot, o in altre parole le 4 lettere del nome di Avaya. Ciò che nel generale esiste anche nello speciale. Tutto ciò che vive ha la struttura di 4 lettere, o 22 lettere, o 10 sfirot. L'intero universo è costruito con 22 lettere, e tutto ciò che vive sul pianeta Terra è costruito con le 22 lettere. È chiaro? È buono ricordare questo. Porta sempre nella tua memoria lo speciale e il generale. Gradualmente imparerai di più sullo spirituale e noterai che lo spirituale ha gli stessi due elementi come il mondo materiale. Per esempio, quando parlo di un ebreo, non sto solo parlando della persona che il cui sistema di credenza è ebraico, ma sto parlando anche dell'ebreo dentro di te. Questo è molto importante e non dovrebbe essere dimenticato. Tieni nella memoria lo spirituale, inizia dove finiscono i tempi, dove non c'è spazio o movimento. Quale sentimento puoi avere? In un certo modo porta ogni cosa ai tuoi pensieri, all'inizio del tuo pensare. L'inizio della materializzazione è nel pensare. Significa che prima era un semplice pensiero, nessun pensare. Lo spirituale inizia nel pensiero e quando puoi rimanere nel pensiero ottieni limpidezza, chiarezza. E poi può accadere che quando stai leggendo lo Zohar o Etz Chaim lo vedi in tutta la sua chiarezza. L'ho sempre amato quando camminavo a Maiorca con mia moglie. Era speciale, l'aria così limpida. Da nessuna parte in Spagna l'ho trovato così, ma a Maiorca c'era un cielo limpido. Potresti assaggiarlo. Non ero ancora impegnato nella cabala, ma ho detto, posso assaggiare l'aria che era così pulita a settembre. Così è lo spirituale. Puoi immaginare com'è l'esperienza spirituale? Non ha assolutamente nulla a che fare con i sentimenti. Il nostro sentimento terreno, lascialo perdere, per noi non è interessante. Perché è per questo che le 22 lettere sono divise in 3 gradi, numeri singoli, decine e centinaia. Non importa dove si trovino quelle 22 lettere, a quale sfirà appartengano o a quali persone appartengano. Sempre 22 lettere saranno divise in 3 gradi, numeri singoli, decine e centinaia. Singolo 1, 9, decine 10, 99 e centinaia 100, eccetera. Come forse saprai, anche ogni lettera ebraica è un numero. L'ultima lettera Tav è il numero 400. Il Kuf è la prima lettera delle centinaia, 100. È buono impararle a memoria che, come vedi per esempio la lettera Samech, tu la conosci immediatamente, 60. Più tardi vedrai i punti di forza e comprendi il perché ne abbiamo bisogno. E i singoli numeri sono da Aleph a Tet. Aleph è 1, Bet è 2, Gimel è 3 e Dalet è 4, eccetera, fino a Tet 9. Sono 9 sfirot di Binah. E le decine sono da Yud a Tzadi, sono i 9 sfirot di Zerampin, e le centinaia provengono da Nukva. Come vedi, ci sono 22 lettere dell'alfabeto ebraico e sono divise in 3, Binah, Zerampin e Malkut, solo 3. La nostra anima è Nefesh, la luce Nefesh è Malkut, seguita da Ruach, e la parte dell'anima che è Ruach è in accordo con Zerampin. La terza parte della nostra anima appartiene a Neshamah e lei è d'accordo con Binah. Vedi la somiglianza? I singoli numeri o le lettere da Aleph a Tet appartengono alla sfira Binah, ai punti di forza di Binah. Chi è il Keter della Binah? Infatti la lettera Aleph è Keter di Binah. Chi è gli Esod della Binah? Infatti la lettera Tet. Chi è Kochmah di Binah? La lettera Bet. Puoi seguire questo? Nelle lettere sono nascosti i punti di forza in accordo con i nostri Kelim. In un modo anche noi abbiamo tre Kelim. O parliamo di Kelim o parliamo dei nomi del Creatore, come Avaya. E ora vediamo un nuovo metodo, le lettere dell'alfabeto ebraico. Le lettere ebraiche, come scritte nella Torah, sono più di una sequenza di lettere. Naturalmente c'è la semplice storia come Abramo che andava in quel posto e aveva un bastone. Una sequenza di lettere, ma dentro nascoste ci sono i punti di forza. Binah che andava a... c'era un movimento per correggere certi gradi del nostro interno. Hai bisogno di sapere che il nome Abraham è la forza di Chesed e lui andò da qualche parte. È giunto il momento per nuove rivelazioni, anche se la storia è su Gvura e lei è la forza del lato sinistro e ci racconta come può arrivare nel mezzo. So che la mia gente sta imparando la Torah, ma quello che fanno è buono ovviamente, ma è giunto il momento di rivelare cose nuove. Ari non poteva condividerlo. C'era solo un giovane uomo e lo condivideva con lui, mentre ora, in questo tempo, è diventato molto più facile per noi capire. E le decine provengono da Yud, Yud 10, Azzadi 90, sono i 9 Sfirot di Zerampin. Significa che Yud è il Keter dello Zerampin e Zadi è lo Yesod di Zerampin. Capito? Ora puoi capire perché parliamo di lui. Lui è una persona giusta. Yesod è un tzadik e Yesod significa fondamento. È anche scritto nella Torah Tzadik Yesod Haolam. Un giusto è la base del mondo. Ora ne conosci il significato. Quando vedi la parola tzadik, ricorda il significato. È colui che è giusto e appartiene a Yesod di Zerampin. Ora puoi capire perché è così importante connetterti con Yesod. Lui è la base e tu hai bisogno di entrare in contatto anche con la tua base, perché solo allora puoi dare man, dare una richiesta per ricevere luce chiara. Tzadi è Yesod e il numero 90, a ogni cosa, 9 Sfirot, da 10 a 90. E le centinaia vengono da Nukva, Malkut. Nukva significa non ancora una Malkut completa, Malkut in sviluppo. A Nukva manca l'esperienza di tutte 10 le Sfirot e ci dice che dentro ci sono le centinaia. E quindi in Malkut ci sono solo 4 lettere, Karshat, perché lei ottiene solo 4 Sfirot da Zerampin, dal suo Chasech di sotto, che sono Nehim, Kuf, Resh sono Netzach, Hod, Shintav sono Yesod e Malkut. E quindi in Malkut ci sono solo 4 lettere, Karshat. Il K sta per Kuf, la R sta per Resh, S sta per Shin e la T sta per Tav. Kuf è 100, Resh è 200, Shin è 300 e Tav è 400. Ci sono solo queste 4 lettere che significano 4 Sfirot. Cosa significa questo? All'inizio Zerampin ha solo Nukva perché è nella fase di sviluppo, e sì, durante il tempo della creazione, quando i mondi venivano in esistenza, e Zerampin è il mondo, Zerampin era l'ultima sfira, e attaccata a lui era la Nukva, la femmina. Più diventa perfetta, che significa la costruzione di un parzuf con 10 sfirot, lei diventa Malkut. In questo puoi vedere la Nukva è un elemento femminile del Zerampin, con 4 sfirot, ma quando è cresciuta diventa indipendente, Malkut con 10 sfirot. Perché lei ottiene solo 4 sfirot da Zerampin dal suo Chasech, sotto al torace, che significa dal Parsa a sotto. Zerampin ha 9 sfirot, 6 sopra la Parsa, ovvero Keter, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah e Tiferet. Poi viene la Parsa che divide ogni Parzuf in 2 parti, e sotto la Parsa ci sono Netzach, Chod e Yesod. Questi Netzach, Chod e Yesod vestono la Nukva. Questo può essere paragonato a un paralume. Nukva ha solo Netzach, Chod e Yesod, e stanno sotto la Parsa. Più tardi, quando il suo sviluppo è terminato, può contenere più di 4 sfirot di Zerampin. Il significato di tutto questo è che la Nukva cresce e diventa Malkut. Significa uguale a Zerampin, o in altre parole. Ora lei può comprendere, ma ancora lei veste lui e lei diventa indipendente solo nel tempo del Gmar Tikkun, la correzione finale, per cui la luna è uguale al sole. Il significato di queste parole sarà spiegato più tardi. Per ora ti basti sapere che sono sotto la Parsa solo 4 sfirot di Zerampin, Netzach, Chod, Yesod e Malkut o Nukva, che sono Nehim, Kufresh sono Netzach, Chod, Shinetav sono Yesod e Malkut. Ora vedi Zerampin ha 2 parti, una superiore e una inferiore, ma è possibile dividerlo anche in 3. Le 2 parti superiori come 1, poi 6 sfirot e la parte inferiore con 4 sfirot. Nukva è la parte inferiore del Zerampin, con solo 4 sfirot. Quindi puoi capire perché le ultime 4 lettere sono collegate con Nukva, ma quando il suo sviluppo è finito, lei ha 5 sfirot proprio come le altre. Oggi abbiamo imparato nella lezione di Heblet le 5 lettere finali, ossia Kaf, Mem, Nun, Pe, Zadi, e il loro valore numerico è 500, 600, 700, 800 e 900, e insieme da 27 lettere dell'alfabeto ebraico. Quando Nukva diventa Malkut, ha 9 sfirot. Le 4 sfirot di lei sono sempre nell'alfabeto ebraico, e con loro ha la forza di Zerampin. Lei veste Zerampin. Vestiti significa come un paralume che lo circonda, e quindi lei può ricevere una parte della sua luce su quel livello. E se lei arriva alla sua maturità, ha la forza per 5 sfirot in più, ma tutti appartengono alle centinaia. Questo era per oggi. La prossima volta continuiamo e scopriamo come ottenere il nostro salvataggio. Salvataggio di... Salvataggio dalle forze impure.